i demoni. La Chiesa ha sempre riconosciuto, insieme all'esistenza degli angeli buoni, quella degli spiriti malvagi. Creati da Dio buoni, essi diventarono cattivi per decisione propria, come insegna il IV Concilio Lateranense. Questo punto è fondamentale perché, a differenza dei culti pagani che hanno sempre riconosciuto divinità buone e divinità cattive, cadendo nel dualismo, il cristianesimo afferma che Dio ha creato ogni cosa buona e che sia gli angeli sia i demoni sono semplici creature. Questi ultimi sono cattivi in senso morale, non in senso ontologico. La Chiesa ha parlato numerose volte del demonio anche nel Concilio Vaticano II, ma non ha mai voluto sottolinearne troppo l'importanza. Ci sono due errori opposti che rallegrano i demoni: credere che non esistano e dar loro troppa importanza. L'Antico Testamento parla poco del diavolo, sia perché egli non è protagonista della storia della salvezza, sia per evitare ogni riferimento idolatrico. Si narra lo scontro tra l'arcangelo Michele e il demonio, che con il suo non serviam, per superbia rifiuta di servire Dio. Daniele 10, 13 e seguenti, 12, 1, Geremia 2, 20. In Isaia 14 si narra la caduta e la morte del tiranno Lucifero. Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato steso a terra, signore di popoli? Eppure tu pensavi: salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nelle parti più remote del settentrione. Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso. Isaia 14, 12, 15. Sicuramente il passo si riferiva anche ai tiranni di Babilonia, ma il contesto e l'insieme della scrittura, secondo anche l'interpretazione dei padri, spingono a leggerlo in senso demonologico. Il Catechismo afferma che la scrittura parla del peccato dei demoni, una caduta consistente nel rifiuto di Dio e del suo regno. Catechismo della Chiesa Cattolica 392. Tra i padri della Chiesa, Lattanzio, nelle Divine Institutiones agli inizi del secolo IV, spiega come Lucifero fosse il più bello e il più perfetto degli angeli, quindi il vertice della creazione. Posto di fronte al disegno di Dio di incarnarsi nell'uomo, avrebbe rifiutato per invidia e per superbia, come se a noi uomini venisse chiesto di servire le formiche. Fondamento scritturistico di questa dottrina è considerato Ebrei 1:6. Quando invece introduce il suo primogenito nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio. L'uomo è chiamato a sviluppare l'immagine divina in se stesso attraverso le diverse tappe della propria vita. L'angelo invece si è giocato tutto nell'istante della creazione e Lucifero in quell'attimo avrebbe rifiutato di imitare l'umiltà di Dio, che per amore si faceva uomo. Perciò il demonio aborrisce l'umanità di Cristo e colei che con il suo sì ha donato a lui quell'umanità. È logico, quindi, che nel Nuovo Testamento l'esistenza del demonio sia molto più evidente e sia sempre presentata in relazione alla persona di Gesù. Matteo 12:28. Il Vangelo di Matteo, in particolare, parla spesso dei demoni, cioè degli spiriti cattivi. I dati fondamentali sul demonio e sull'origine della sua attività vengono essenzialmente dalla vita di Cristo, che è stata una continua lotta contro Satana. La sua cacciata è presentata da Gesù come la realizzazione del regno di Dio. Matteo 12:28. Satana è colui che semina la zizzania. Matteo 13, 25, 29, che ruba dal cuore degli uomini la parola di Dio, Matteo 13, 19, che suggerisce la morte di Cristo, il cui arresto viene indicato da Gesù stesso come l'ora della potenza delle tenebre, Luca 22, 53, e che è stato gettato fuori grazie alla croce di Cristo, Giovanni 12, 31. Gli increduli sono chiamati da Gesù figli del diavolo, Giovanni 8, 44. Che è stato peccatore ed omicida fin dal principio, prima Giovanni 3:8. Ciò è evidente nell'episodio della liberazione dell'indemoniato di Gerasa in Matteo 5:1-20, quando la legione dei demoni chiede di entrare nella numerosissima mandria di porci per ucciderli tutti. Il nome Satana vuol dire avversario, calunniatore o tentatore, come dimostra il fatto che Pietro viene chiamato con questo nome proprio quando tenta Gesù, Matteo 16:23. Il diavolo accusa l'uomo giorno e notte di fronte a Dio, Apocalisse 12:10. Il libro dell'Apocalisse parla del drago o antico serpente, Apocalisse 12:39 e 13:2, confermando l'identità diabolica del tentatore di Eva, Genesi 3:1. Nel libro di Zaccaria, Satana accusa il sacerdote Giosuè davanti a Dio, mentre l'angelo lo difende, Zaccaria 3. Nel libro di Giobbe, l'azione del tentatore è determinata dall'invidia, Giobbe 1:2, ma egli non può vincere la fedeltà dell'uomo. Questo punto è particolarmente importante perché mostra come, con l'aiuto della grazia, Satana viene vinto. Conferma di questo si trova nello stupore dei 72 discepoli di fronte alla sottomissione dei demoni e nel commento di Cristo. «Io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore», Luca 10:18. Nella traduzione greca della Bibbia ebraica, la parola Satana viene tradotta con diabolos, che deriva da diaballo, il cui significato è separare, spaccare, opposto al siumballo, riferito a Maria in Luca 2:19, cui già si è fatto riferimento. Nell'Apocalisse si presenta lo scontro finale di Michele e dei suoi angeli che combattono contro il drago e i suoi diavoli, culminato con la definitiva sconfitta di quest'ultimo, Apocalisse 12:7-9. Oggigiorno viene spesso negata l'esistenza del demonio e il suo carattere personale in base ad una lettura dei testi che a lui si riferiscono solo in senso mitico e poetico. Dietro questa idea c'è la tendenza a ridurre la realtà del male a livello ontologico del mondo stesso, ritornando ad una sorta di dualismo. Si dice che il diavolo sarebbe semplicemente una proiezione dell'interiorità dell'uomo, invertendo i termini del discorso. Non sarebbe il diavolo all'origine del male dell'uomo, ma il male dell'uomo sarebbe all'origine del mito dell'esistenza del diavolo. Esso sarebbe solo una spiegazione ingenua dei diversi mali che ci affliggono. Questa concezione errata è resa attraente dal fatto che elimina il valore fondamentale che la responsabilità personale gioca nella dottrina cristiana. Oggi il tema del demonio è molto attuale anche a livello pastorale, Catechismo della Chiesa Cattolica 1673. La medicina è riuscita ad evidenziare l'origine biologica di molti disturbi che anteriormente erano attribuiti al demonio. I progressi della scienza hanno spinto a ritenere in modo ingiustificato che ogni possessione sia riconducibile semplicemente a problemi psicologici o fisiologici. La Chiesa è sempre stata molto guardinga in proposito e si deve anzi dire che gli stessi progressi della medicina evidenziano la realtà di alcuni fenomeni straordinari nei quali l'azione del maligno si manifesta in maniera diretta. Il Nuovo Testamento attribuisce al demonio la malattia di molte persone curate da Cristo e l'esegesi non può trascurare questo dato. Non si può dimenticare che nel 1972 Paolo VI parlò del fumo di Satana che filtrava attraverso le fessure e le crepe della Chiesa, 19 giugno 1972, e dedicò pochi mesi dopo un'intera udienza alla questione, 15 novembre 1972. Nel 1975 la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicò il documento Fede Cristiana e Demonologia. Nel Catechismo si afferma che la potenza del demonio non è infinita, perché egli è pur sempre una creatura e in tutto ciò che fa, anche se non vuole, è sottomesso alla provvidenza divina. Catechismo della Chiesa Cattolica 395. Il Signore protegge l'uomo, che non deve temere Satana, perché, come dice il pastore di Erma, soltanto può infondere timore, ma un timore senza fondamento. Basta non aver paura perché fugga. Può combattere, ma non può vincere. Il demonio è già vinto e per il suo peccato è condannato al fuoco eterno, Matteo 25:41. La Chiesa non ha mai accettato la dottrina dell'apocatastasi di Origene, che prevederebbe la conversione finale dei demoni. In 1 Corinti 15:28 si parla della sottomissione finale di ogni cosa a Dio, ma la sottomissione è diversa dalla conversione. Paradossalmente, l'esistenza dei demoni e dell'inferno dimostra l'autentico valore della storia e delle scelte personali. La vera grandezza dell'uomo e dell'angelo è nella capacità d'amare e quindi nella libertà che la fonda. E tale libertà implica anche la possibilità del rifiuto. E proprio per questo coloro che rifiutano, nonostante le loro intenzioni, finiscono per rendere gloria a Dio.